Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi portò al ristorante, che era un evento unico, che nemmeno con la mamma ci andava. E pensare che oggi, che sono passati 30 anni, mi ricordo ancora tutto il menù. Risotto ai funghi, arrosto di maiale e soprattutto la meravigliosa torta di noci. Dopo aver mangiato mi stavo incamminando verso casa, ma papà mi ha preso per mano e mi ha detto che se avevo voglia andavamo al cinema. Io sapevo che esisteva il cinema di pomeriggio, ma non c'ero mai stata. Nessuno di noi c'era mai stato. Ciao, sono Antonella, ho 41 anni, ho una piccola pasticceria a Pioltello. Sono nata a Torino e vivo a Pioltello, in provincia di Milano. Ecco, questo è esattamente come ieri. È il tipico racconto che arriva, voi siete qui, @radio24.it, che parla di piccoli episodi della vostra vita, che però, proprio perché sono piccoli e perché sono come una scheggia incastonata nel tempo che avete trascorso da quando siete nati a oggi, che raccontano benissimo qualcosa di voi. Nel racconto di oggi di Antonella si capisce chi era lei, si capisce chi era suo papà, è un po' anche si capisce chi era sua mamma. Sono proprio quegli episodi minimi lì. La puntata di oggi riguarda tutte le volte in cui qualcosa era cominciato malissimo e poi invece improvvisamente è rifiorito, è sbocciato, è decollato. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, ma c'è anche un profilo Facebook del programma che è Matteo Caccia, io sono qui. A questo proposito, è arrivata una mail, è arrivata ieri, e queste, le mail fuori contesto, così come i messaggi fuori contesto, sono in assoluto quelle che preferisco. Me la manda Michele. Evidentemente, proprio perché ieri parlavo di questa cosa della categoria episodi minimi che abbiamo per catalogare i racconti che arrivano, Michele ha pensato bene di mandarmi una mail così un po' a muzzo, con oggetto aneddoti della vita quotidiana, episodi minimi. E vi leggo la mail, è breve ed è divertente. Sono di natura semi-autistica. Ho dei momenti in cui stacco completamente pensando ad altro e non mi rendo più conto di cosa stia facendo. Questo mi ha causato nella vita le seguenti cose: uscire di casa con la schiuma da barba in faccia, andare all'università alle 4 di notte, dover tornare a Milano da Trento e arrivare a Reggio Emilia, saltare un anno di università tra la triennale e la specialistica perché mi sono dimenticato di iscrivermi, tra parentesi, ero in viaggio di piacere con due amiche, entrare in una macchina di un estraneo convinto che fosse un amico, calciare con un tiro alla Roberto Carlos una bottiglietta di plastica contro la portiera di una macchina di passaggio. Michele, grazie mille per la tua mail che è arrivata alle, aspetta un attimo, 16:28, quindi era esattamente, eravamo ancora in onda. Non so che cosa spinga un uomo così nel bel mezzo della sua giornata lavorativa a mandarmi una mail di questo tipo. Ecco, lui forse non è il caso di dove lavora, altrimenti lo licenziano. Vi dico solo che la sede legale del posto dove lavora è Usmate Velate. Usmate Velate credo che sia in provincia di, secondo me è Monza Brianza. Sì, Monza Brianza. Tutto quello che finisce in ate. No, perché anche Varese c'ha un po' quella roba lì, c'ha Tradate. No, Tradate non è in provincia di Varese, però anche Varese ha un po' tutto quello che finisce in ate. Usmate Velate. Sembra un nome finto, Usmate Velate. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Vi faccio un esempio. Antonio: il mio Erasmus era partito malissimo. Sono partito in novembre, da solo, senza conoscere una parola di tedesco, senza che conoscessi nessuno e soprattutto senza avere un posto dove dormire. All'arrivo ero disperato, dopo qualche settimana ero l'uomo più felice del mondo. La mia Karlsruhe mi manca sempre tanto e appena posso ci torno. Ecco, per farvi capire, ed era Karlsruhe. Pensate se fosse stato a Berlino, cosa sarebbe stato. Riccardo è il mio messaggio preferito in assoluto. Io da piccolo ero un po' bruttino, ma poi sono diventato un uomo da spettacolo. E tutto il contrario di ieri sera, quando sono capitato per caso alla solita cena di Natale che uno dice non le organizzo e poi ci capiti, ed era cominciata bene invece, era proprio il contrario, era cominciata bene e poi ho finito parlando degli spettacoli al CRT che sembravano belli invece facevano schifo, e con un bambino che mi chiedeva costantemente per quale motivo non gli dicevo il segreto del gioco in cui fai sparire la moneta. Se è un segreto non si può dire, glielo dico nel caso stesse ascoltando il bambino che aveva 7 anni. E lì mi sono buttato su Twitter, che ho capito, Twitter proprio quando ti stai annoiando ti butti su Twitter. Ma oggi è proprio il contrario, è già la volta che era proprio partita malissimo, era partita malissimo e poi è successo qualcosa. 349-238-6666. Prima di andare al racconto di Antonella, però, Io vorrei tornare a questa cosa che mi ossessiona da un paio di giorni, anzi da più di un paio di giorni, direi una decina di giorni ormai. Ed è che quando sono capitato, non chiedetemi come né perché, in un appartamento in cui vendevano tutti gli oggetti di una signora anziana morta, come se fosse un mercatino, io mi ero comprato, vi ricorderete, un diario. L'ho pagato 5 euro questo diario. È un diario che risale al 1925, in cui questa anziana signora, che allora era una bambina, scriveva tutto, ma proprio tutto. Vi leggerò un piccolo pezzo datato 28 marzo 1925. La signora, evidentemente come me, da bambina aveva una passione per il meteo, quindi partiva sempre dando indicazioni su che tempo faceva. Un po' probabilmente era perché non sapeva cosa scrivere, e un po' perché aveva sempre la speranza che se il tempo era cominciato male potesse migliorare. E qui è esattamente così, perché è cominciata la primavera, ma stenta ad arrivare. 28 marzo 1925. La primavera è già incominciata da parecchi giorni, ma il tempo è ancora bizzarro. Per un po' di tempo fa brutto, dopo diventa bello, ma non ci lascia nemmeno il tempo di esclamare «Che bella giornata!». Così è che torna a cambiare e riprende a piovere. Ah, l'aprile. Oggi in classe venne la madre superiora a sentire un po' di francese e di storia. Oggi, sebbene fosse sabato, non abbiamo avuto il biglietto d'applicazione, perché lunedì o martedì verranno distribuite le pagelle. Che bella poesia abbiamo da studiare! È intitolata Il Viatico ed è del Pascoli. Ora io adesso ho due domande almeno a chiunque fosse nato o avesse a che fare con quegli anni. Che cos'è il biglietto d'applicazione? Perché evidentemente tipo sono dei compiti, probabilmente, perché dice oggi sebbene fosse sabato non abbiamo avuto il biglietto d'applicazione, perché lunedì o martedì verranno distribuite le pagelle. E poi il viatico di Pascoli, non ho assolutamente, ma a 7 anni imparavano il viatico di Pascoli. Ma io direi, visto che c'è anche il 3 aprile 1925 in cui ci dice com'è nata la pagella, io leggerei com'è andata. 3 aprile 1925. Stamane la madre superiora venne a distribuire le pagelle. Come mi batteva il cuore quando mi sentii nominata. Andai alla cattedra dove la superiora mi disse di migliorare in comporre, perché ho avuto 7 meno. Del resto ho avuto 7, 8, 9 e 10. Di media ho 88 centodecimi. Aspetta un attimo. Di media ho 88 centodecimi. E migliorai di 8 punti perché nella votazione scorsa avevo 88-110. Ma c'è qualcosa che non va, perché la media, cioè se è una media sarà 8, sarà 8. Cioè non capisco la votazione in centodecimi. Non lo so se una volta in centodecimi oppure semplicemente è un errore. Tenete presente che io ve lo leggo direttamente dal quaderno e quindi la scrittura è proprio quella di una bambina che sembra una bambina anziana, nel senso che mia nonna adesso scrive ancora così, probabilmente scriveva così quando aveva 7 anni. Vabbè, insomma, questo diario io continuo a leggermelo, vi prometto che non vi leggo tutte le pagine perché potrebbe diventare stucchevole, però ci sono dei passaggi che sono commoventi. 349 238 6666. Tutto era partito molto male, poi invece qualcosa è cambiato ed è decollato. Assunta, Sardegna, io e mia cugina, prima vacanza insieme, iniziata da suicidio, finita magnificamente, ma vabbè. E poi eccolo qua, ti pareva che non arrivava. Alessandro, la mia storia di amore, scrive proprio con la lettera grande amore, è cominciata con un secco no. A dire no sono stato io. Di fronte a me avevo quella che poi sarebbe stata la donna della mia vita. È solo grazie alla sua tenacia che qualche anno dopo ho ceduto. Le donne non desistono mai dai loro propositi. Adesso Alessandro, non esageriamo. Qualche volta anche loro si tirano indietro, per fortuna. Adesso sono felicemente sposato con due bellissimi figli, un altro in arrivo, e con il solo rimpianto di non avere ceduto prima. Era partito malissimo e poi invece qualcosa è cambiato. Quel giorno era cominciato male, malissimo. Avevo provato a svegliarlo, ma niente. Tutte le procedure di vestizione, lavaggio e colazione procedevano a rilento. Lo sapevo che avremmo fatto tardi. Me lo sentivo. E infatti è andata così. In macchina lui cercava di andare veloce, ma non troppo. Insomma, quel che basta per provarci, ma non abbastanza per riuscirci. E quando siamo arrivati in piazza, il pullman era appena partito. È vero, erano le 8.45 e noi avevamo l'appuntamento alle 7.30, però speravo che ci fosse un po' di tolleranza italica. E invece niente. I miei compagni erano partiti e la mia settimana bianca se n'era andata con loro. Adesso invece mi toccava andare a scuola. E guardavo mio papà non come fosse George Clooney in Un giorno per caso, ma come un orco, perché mi aveva tolto la gioia e non provava nemmeno a scusarsi o a sorridere per sdrammatizzare. Era da qualche parte in Val d'Aosta e mi ricordo solamente benissimo la scena di arrivare lì davanti alla chiesa dove c'era l'appuntamento e trovarla vuota perché il pullman era partito. Lo odiavo. Gli chiesi di portarmi a scuola, ma non lo fece e tornammo a casa in silenzio. Era serio, mi sembrava che non gliene fregasse niente. Io mi tenevo le lacrime in tasca, lui non lo so. La sua faccia non faceva capire nulla. Forse, chi lo sa, si sentiva in colpa, però non lo faceva vedere. Porca miseria, doveva solo accompagnarmi al pullman. Non era difficile. Tornati a casa, mi preparò una seconda colazione con caffè latte e biscotti, che mi sorprese un po'. Non era da lui. Poi andammo in cortile e cominciammo a spalare la neve. «Ma, papà, scusa, non vai a lavorare oggi?» gli chiesi. «No», mi rispose lui. «Oggi sto con te». Lui spalò la neve e io feci un bel pupazzo. Con il passare del tempo la mia rabbia spariva, lasciava spazio a una specie di felicità. Eravamo io e mio padre a fare cose utili e inutili anche, dietro casa. Sempre in silenzio, ma in un certo senso complici. Era chiaro, lo stavo perdonando. Verso mezzogiorno gli chiesi se voleva qualcosa da mangiare ed è stato lì che mi ha fatto il primo vero sorriso della giornata. Poi mi ha guardato e mi ha detto che no. Oggi si andava fuori a pranzo. Il rapporto, vabbè, con mio papà è buono. Non è una persona particolarmente affettuosa che sa esprimere i sentimenti, no? Però in certo senso si è fatto perdonare per la mancanza. Mi portò al ristorante, che era un evento unico, che nemmeno con la mamma ci andava. E oggi che sono passati 30 anni mi ricordo ancora tutto il menù. Risotto ai funghi, arrosto di maiale e soprattutto una meravigliosa torta di noci. Dopo aver mangiato mi stavo incamminando verso casa, ma papà mi ha preso per mano e mi ha detto se avevo voglia di andare al cinema. Io sapevo che esisteva il cinema di pomeriggio, ma non c'ero mai andata. Nessuno di noi c'era mai andato. Davano un film che si chiamava Asso, con Adriano Celentano. Non era un film per bambini, ma a me Celentano piaceva. Il cinema è un luogo magico già di per sé, ma quel giorno era diventato un rifugio dolce, dove stare attaccata al braccio di mio padre, a ridere di quello che faceva i versi sullo schermo. La sala era mezza vuota e noi ridevamo tanto, forse anche di più del necessario, così potevamo goderci il fatto in sé di poterlo fare. Dopo il cinema siamo andati a prendere mamma al lavoro, che di solito doveva prendere i mezzi, e quando ci ha visto è rimasta sorpresa, però si vedeva che era felice. E anche se non capiva bene come mai io non fossi partita per la settimana bianca, ci vedeva così sorridenti e non disse niente. E allora andammo verso casa. C'era un film con Gwyneth Paltrow in cui si vedevano in parallelo le due vite possibili di una bella ragazza londinese in carriera, con un bel lavoro e un fidanzato elegante. Non era male, lo conoscerete, si chiamava Sliding Doors. Fondamentalmente era la doppia storia di che cosa le sarebbe successo se avesse preso la metropolitana o se l'avesse persa. Un evento non particolarmente importante. Uno dei tanti bivi che la vita ti mette di fronte. Nel film però quello è un bivio importante, perché in un caso la Paltrow scopre un tradimento, si reinnamora e poi finisce sotto un camion. Nell'altro caso invece cambia idea, prende un taxi, non scopre il tradimento perché ci mette più tempo e quindi continua la sua vita di prima, con un po' di menzogna dentro, ma meno traumatica. Finché succedono delle cose per cui finisce anche lei in ospedale, dove forse ne comincerà una nuova, magari splendida, però quello solo alla fine del film. Quelli che ne sanno di cinema più di me, cioè praticamente tutti, mi dicono che questo è un tema che era già caro a Kieslowski, che ne aveva fatto già un film prima, poi ne ha fatto un altro anche dopo, ma siccome era polacco sostanzialmente non se lo filava nessuno. Comunque quella storia mi ha sempre fatto pensare a quante cose possono capitare se quando arriviamo a un bivio prendiamo una strada oppure un'altra, banalmente. Perché quelli che dicono che siamo sempre noi a costruirci le nostre fortune o a causare i nostri problemi non la dicono proprio giusta. Perché non è che io sia fatalista e non faccio niente per migliorare le cose, però è anche vero che se uno gira l'angolo e gli cade in testa un vato dal terzo piano, non è che si può anche dargli la colpa, no? O se uno perde tutti i capelli perché a una certa età anche tutti i suoi antenati li avevano persi, c'è poco da fare. Cioè, è proprio genetico, non puoi farci nulla. Quello che è vero, però, è che può succedere come nella storia di Antonella, che da una cosa brutta, orribile, esca una cosa bella. Lo diceva anche Sant'Agostino, che era un modo per dire che non bisogna abbattersi se qualcosa va storto, in sostanza, perché non si sa mai, magari c'è qualcosa di buono dietro l'angolo. Non chiedetemi come faccio a citare Sant'Agostino, perché è semplice, ho cercato su Wikipedia. Lui diceva ex malo bonum, che significava più o meno che il bene nasce dal male, che vuol dire che magari se non ti trovi in qualche difficoltà non hai nemmeno quella spinta per fare qualcosa di positivo. In questi tempi non è nemmeno male come citazione. E calza a pennello la storia della giornata più bella della vita di una ragazza e di suo papà, nata da una piccola svista, da un piccolo dramma familiare. E a quante volte si progetta qualcosa e poi scopriamo che fare proprio quella cosa opposta era meglio? E non so perché succeda così, Forse perché le aspettative creano sempre delle delusioni. E se ci immaginiamo una vacanza, per esempio, ce la raffiguriamo perfetta, e quando non va esattamente come speravamo, è come se fosse un piccolo fallimento. Invece, quando ci capita una cosa sgradevole, dopo che abbiamo preso la botta e l'abbiamo assorbita, non c'è nulla che possiamo aspettarci di positivo. E quindi, se invece arriva, ci sorprende, ci fa più felici. Io una volta mi sono rotto un braccio e oltre al dolore che poi è passato, credevo che rimanere con il gesso per 40 giorni sarebbe stato un inferno. E non è stata una roba da niente, in effetti, però non è stata neanche una tragedia. Anzi, ho imparato a usare la sinistra, ad esempio. E però sempre servito, sempre riverito, ho letto i fumetti e guardato la TV senza che nessuno mi dicesse che dovevo fare commissioni o andare a fare gli allenamenti. E a scuola nessuno mi chiedeva niente. Anzi, le ragazze venivano a chiedermi se potevano metterci la firma sul gesso. E all'intervallo ero sempre al centro dell'attenzione. E nessuno poteva parlare male di me. Ecco, io adesso non è che mi romperei un braccio apposta, ma quando è successo è stato bello. Che a dirlo fa scemo, lo so, ma credeteci, era così. I don't want to see you destroy my chance to be the one who writes the rules. We've been waiting. Era cominciata malissimo. Alex da Milano. Il torneo era partito male. Erano arrivati tutti e nella mia squadra non c'era posto. E quindi avrei giocato con l'altra, con gli Aceri di Pesaro. Seconda linea praticamente. Che è dalle tue parti, Paolino? Gli Aceri, conosci gli Aceri? Mai sentiti. Vabbè, credo rugby, credo. Con gli Aceri di, sì, seconda linea. Praticamente ero titolare. Negli Aceri di Pesaro era titolare. Così mi sono diviso tra Salamelle e Mischie. Ho vinto il torneo. Prima partecipazione e in finale ho battuto la mia squadra. Alex di Milano, 349-238-6666. Insomma, era veramente partita male quella giornata per Antonella. E poi invece ha proprio preso un'altra piega. Pronto, Antonella? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Ma stai lavorando, giusto? Sto lavorando. Anche perché, scusami, qua sulla scaletta vedo Antonella chiamare sul numero del negozio, tra parentesi, un po' prima. Sì, no, beh, un po' prima no, più che altro perché è una pasticceria e adesso siamo veramente un po' presi. Ma perché sotto Natale è un po' un macello. Cosa va via di più sotto Natale? Il panettone. Va bene. Ma se faccio panettone fin sopra le orecchie non ne posso più. Però, ma, vabbè, senti, ma il panettone, ma hai la radio accesa, Antonella? No, no, è spenta, la stessa. Ok, spenta, perché sentivo un'eco strana. Veramente l'ho abbassata, non è proprio spenta. Ah, la spegniamo. Brava, sì, perché brava, altrimenti. Vabbè, brava. Senti, quindi tu ascolti ovviamente lì nel laboratorio, certo, la radio. Dietro, c'è la radio. No, però torniamo al panettone. Sì. Ma il panettone della pasticceria è tanto più buono di quello del supermercato? Matteo, mi sorprendo che mi chiedi una cosa così. Ma te lo chiedo apposta, Antonella, tu lo sai, perché vorrei capire in sostanza quanto di più costa il panettone di pasticceria. No, guarda, è che veramente quello artigianale è veramente diverso. Io vi inviterei tutti a mangiarne una. Ma dai, sì, davvero ci inviteresti? Ricordiamo il nome della tua pasticceria. Vabbè, Dolce Voglia di Pioltello. Dolce Voglia. No, cioè, scusami, poi torniamo al panettone. Sì, dai, ma i nomi delle pasticcerie sono la cosa che preferisco di più al mondo. È un bellissimo nome, Dolce Voglia. Dolce Voglia, l'hai scelto tu, Antonella? Sì, è un po' mio... Continui a sembrare che tu sia in una grotta, non capisco come mai, la mia voce riecheggia. No, ma ti giuro che la radio è spenta, forse il laboratorio, non lo so. Quindi, scusami, dicevamo, qual è la vera particolarità del panettone di pasticceria? Sono fatti a mano, cioè io veramente l'impasto, vabbè, l'impasto è fatto con una macchina, con un impastatore, cioè, però sono fatti a mano, sono fatti con prodotti diversi, anche perché se ci pensi bene, cioè, adesso non è niente contro i supermercati, però i supermercati hanno dei prodotti a 4-5 euro. E i nostri costano un po' di più perché cioè io solamente il burro lo pago 5 euro. Quindi quanto costa un panettone di pasticceria da te? Beh, da me non costa neanche tantissimo perché siamo in provincia, noi siamo a 18 euro al chilo. Poi è vero. Ma quanto pesa un panettone, perdonami? Ma da 7,50 a chilo e mezzo. Quindi questi 10-12 euro di panettone mi viene via? Sì, tranquillamente. tranquillamente lo immaginavo. Senti, sì. Quanti ne vendi al giorno? Adesso, guarda, stiamo facendo un conto, ti dico più o meno questa stagione, penso che siamo intorno ai 400 ne abbiamo fatti, ma noi siamo molto piccoli, Sì. Sono pasticcerie che ne fanno molti di più, considerando che ne posso fare una decina al giorno, 10-15 al giorno riesco a farne. Senti, la gente compra meno dolci in questo periodo? No, devo dire che il problema è che li comprano tutti questa settimana, perché fino alla settimana scorsa sembrava un macello, sembrava che non ci fosse niente, invece da lunedì praticamente sembra che tutti vogliono panettoni a gogo e purtroppo sai un po' un casino. E invece in assoluto, Antonella, poi scusa, andiamo sì, perché un po' di curiosità, a parte questo periodo qui, in assoluto qual è la cosa, il dolce che vendi di più? Il dolce che vendo di più qua? Sì, sì, da te. Cannoncini. Cannoncini, sì, grandi, sì, con crema chantilly. Io li odio. No, con la crema pasticcera. Mi piacciono anche più. Che differenza c'è, scusami, tra crema pasticcera e crema chantilly? Crema pasticcera è quella gialla. Quella gialla un po' duretta, tipo budino morbido. Sì, e l'altra? La chantilly e la panna mischiata con la crema gialla. Senti, veniamo invece al racconto. Quante erano 30 anni fa che succedeva? Era tanto tempo fa, guarda, era tanto tempo fa e voi l'avete letto benissimo. E proprio, vabbè, un po' una filosofia di vita, no? Cercare di prendere il meglio da una giornata. Senti, cominciata malissimo. Tuo papà c'è ancora? Mio papà c'è ancora. Guarda, volevo che ascoltasse la trasmissione e poi ho detto no, aspetta, magari gliela faccio sentire in podcast. Prima ascolto io, prima sento come che che lavoro faceva tuo papà? Il mio papà era falegname. E quindi insomma in pensione, rispondeva solo a se stesso, quindi un giorno libero se lo poteva prendere. No, lui era liberissimo quella mattina, era l'unica cosa che doveva fare, accompagnarsi a quel cavolo di pullman. Qual è stato il secondo giorno più bello che hai passato con lui? Con mio papà, ecco, guarda, quando è venuto, io poi ho vissuto molti anni negli Stati Uniti, ed è venuto a trovarmi negli Stati Uniti mentre vivevo lì, e abbiamo passato, vabbè, più di un giorno insieme, è stata una settimana che abbiamo passato insieme, che ha cercato di convincermi a tornare in Italia, non ci ho riuscito, però mi ha dimostrato quanto che mi voleva molto bene. Antonella, e poi ti saluto, ricordiamo il nome della pasticceria? Dolce Voglia, a Pioltello. Antonella, grazie mille, grazie, in bocca al lupo per tutto. Ciao, saluto, stai bene. Grazie, ciao. Voi siete qui. Andate a vederle sul sito di Radio 24, alla nostra pagina di Voi siete qui. Sono due le illustrazioni di oggi che raccontano la storia di Antonella. La raccontano a modo loro e in maniera molto diversa. La prima è un disegno piuttosto semplice: si intravede una bambina con un cappottino rosso che tiene la mano a un papà, che però è di spalle, si vede solo un braccio e una gamba. E sullo sfondo invece c'è il pupazzo di neve tipico con la carota piantata nel naso. L'altra invece è più. Più fumettistico, direi. Ha uno sfondo rosso e i tratti di bambina, papà e pupazzo di neve sono tutti in bianco. Queste illustrazioni che trovate sono a cura degli studenti del secondo e terzo anno del corso di illustrazione dello IAD di Milano. In questa cosa sono Valentina Moscon e Sara Ghezzi. 349-238-6666. Federico, sono di Pioltello, appena finisco di lavorare passo alla Dolce Voglia, era Dolce Voglie, mi pare, a fare i complimenti per la storia, ma soprattutto a chiedere una fetta del panettone di Antonella, perché si è offerta di far assaggiare a tutti quanti. Qualcuno mi scrive da me, non so dove, però li fanno anche a 40 euro al chilo i panettoni. Antonella 18, ma Antonella è onestissima, ragazzi. Anche la Deborah Rosciani la consiglierebbe probabilmente. La panna montata mischiata con la crema pasticcera si chiama diplomatica, non chantilly. La crema chantilly è semplicemente panna montata più zucchero a velo. Dai ragazzi, però smogliamo un po', su. E poi usmate velate e come tradate è tutto in provincia di Varese, mi dicono evidentemente dei varesini. Sapete la differenza tra varesini e varesotti? La sapevo anch'io. Varesini è gente che vive a Varese, varesotti è gente che sta nell'Interland di Varese, più o meno. Tutto era cominciato male, poi invece è migliorato. Anno 2000, finita la cassa integrazione, finisco in punizione nella macelleria. Credo che si parli di un supermercato, così a naso. Finisce la cassa integrazione e finisco in punizione in macelleria. Beh, mi è cambiata la vita in meglio. Viva le problematiche, Bruno. La mia vita era cominciata malissimo. Abbandonato da mia madre naturale, poi adottato da due splendidi genitori, poi figlio ribelle e dissennato, ora marito e padre felicissimo. Un abbraccio, Alex da Imperia. 349-238-6666. È arrivato un racconto, ed è un racconto bellissimo, che ha a che fare più che con il era cominciato tutto male, ha a che fare proprio di una bella giornata passata con il proprio padre. C'è moltissimo in questa storia, c'è il rapporto con il padre e c'è soprattutto una sorta di passaggio di consegne che però è sottilissimo, è tra le righe. Poteva essere una storia a sé, poteva essere una puntata a sé quella che ci ha mandato Rossano da Perugia, invece secondo me andava letta proprio oggi. Superai mio padre che scendeva lento e provai a battere la via in cerca del nostro passaggio. La neve cadeva pesante, le tracce si cancellavano in fretta. Mio padre mi seguiva in silenzio. Arrivammo al colle che ormai era notte. Ci fermammo a montare le torce sulla fronte. Ora non eravamo che due fasci di luci fragili nel bosco. Faceva freddo. Io caddi un paio di volte per la stanchezza. Arrivammo alla macchina con i ghiaccioli sui baffi e la barba dura, grinzosa, spessa di sale e nevischio. La neve ormai cadeva senza vergogna. Infilammo di corsa gli zaini e gli sci nel retro della lada. Mio padre montò le catene mentre io saltellavo, spostando il peso da un piede all'altro. Battevo le mani coperte dai guanti a manopola e morivo dalla voglia di essere a casa. L'avevo riportato indietro. L'avevo guidato fino alla macchina. Lui lo sapeva, ma non disse una parola. Al volante però ci andò lui. La strada era ghiacciata, ma lui era un guidatore eccellente. Da giovane aveva corso con i go-kart, con le moto, con la Citroen a forma di squalo lungo il deserto keniota, con la Jeep nel deserto libico. Poi trovammo un posto di blocco. Gli uomini con le giubbe arancioni ci fermarono. Strada sbarrata, troppa neve. Riaprirà domattina, tornate indietro. Io volevo discutere con loro, volevo passare. Avevamo le catene, non c'era nessun problema. Mio padre mi disse, lascia stare, hanno ragione, se non si passa, non si passa, torniamo indietro. Io pensai che fosse ancora abbattuto per prima, ma non potevamo tornare indietro. Saremmo arrivati a mezzanotte e mia madre sarebbe impazzita, quella era la notte della vigilia. Non avevamo il telefono e io non volevo nemmeno pensarci. Ci fermammo a fare benzina e a bere un caffè in un piccolo ristoro sulla statale. Io avevo fretta di ripartire, mio padre no. Non capivo, sorseggiava il suo caffè e fissava fuori dalla finestra la strada vuota. Avanti, andiamo. Sbottò tutto ad un tratto, ma non rivolto a me. E poco dopo ripete le stesse parole. Quando l'auto degli uomini arancioni passò davanti alle vetrine del posto di ristoro con le luci lampeggianti, mio padre si alzò in piedi e mise il denaro sul fogliato del conto. Ok, andiamo. Avevo capito tutto. Bisognava avere fede, ancora una volta. Fuori la neve cadeva dritta, ma i fiocchi erano più radi e leggeri. Salimmo in auto e ci lasciammo alle spalle il villaggio puntando dritti verso la barriera. Sposta quella roba, mi ordinò mio padre. Allora scesi dall'auto, trascinai da un lato uno dei cavalletti e poi lo rimisi al suo posto, non appena mio padre fu passato. Per tutto un lungo tratto scrutai dal lunotto posteriore la strada per vedere se avevamo l'uomo arancione alle calcagna. E poi la barriera svanì. E da lì non ci fu altro che neve. Neve sulla strada. Neve che le catene facevano schizzare qua e là, neve sugli alberi, neve dal cielo. E la nostra scia nella neve. Poi mi girai a guardare avanti. Il tracciato della strada alle nostre spalle era segnato dai solchi della nostra auto, ma davanti non avevamo niente. Mio padre stava avanzando nella neve fresca fra due file di alberi altissimi e canticchiava We Will Work It Out, dei Beatles. Avanzava spedito nella neve fresca, senza il minimo ondeggiare. Dovevamo arrivare in tempo, almeno per la cena. ma non stava correndo, non stava rischiando, aveva il pieno controllo. La Lada correva da sola nella notte, io smisi di pensare sempre avanti. Mio padre sosteneva che pensavo sempre troppo in avanti. Sì, pensavo avanti, e per questo sapevo che avremmo trovato altri uomini arancioni dall'altra parte della strada. Ma quello che non sapevo è che mio padre avrebbe saputo ammansirli con le sue preghiere, riuscendo a passare oltre senza difficoltà, riuscendo ad arrivare in tempo per la cena della vigilia, appena un attimo prima che iniziassero ad arrivare i parenti e appena un secondo dopo che mia madre scoppiasse in una crisi di nervi. Smisi di pensare avanti e iniziai a divertirmi, ad amare il presente. Qua e là notavo qualche indizio sulla strada, una cunetta, un guardrail, dei picchetti arancioni, però mai in numero sufficiente a consentirmi di individuare il tracciato della strada. Alla guida c'era mio padre. Mio padre ha 58 anni, con le sue rughe, i suoi modi gentili, la sua traboccante sicurezza. Era un guidatore eccellente, tutto persuasione e niente coercizione. Sensibilissime le mani sul volante, finissimo il lavoro sui pedali. Mi fidavo ciecamente di lui, e il meglio doveva ancora venire. Montagne russe a non finire e tornanti indescrivibili. La neve continuava a scendere larga, fitta, e noi scivolavamo via. Rossano, che ha mandato questo racconto, ci ha tenuto a specificarci, a voi siete qui @radio24.it, che è come una sorta di mix, cioè ha preso dei pezzi, come si fa con i campioni musicali, no? Che si prende un pezzo forte di una canzone e ci si lavora sopra. Lui ha preso dei pezzi da Neve Fresca, che è un racconto di Tobias Wolff, che è tratto dalla raccolta Proprio quella notte. Il racconto si chiama Neve Fresca, ne ha preso dei pezzi e l'ha messo insieme per raccontare una storia vera che è successa a lui insieme a suo padre la notte di una vigilia di diversi anni fa. Continuate a mandare racconti, voi siete qui @radio24.it. intanto Alberto scrive: no, sulla crema pasticcera ha ragione Antonella, la pasticcera, l'altro mi sa che è ubriaco. Ciao Alberto Cuoco. Alberto, che fai il cuoco? Mandaci un racconto che parla di cucina, eh? Già che ci sei. Usmate Velate, provincia di Monza Brianza, ma l'avevamo detto allora, vicino ad Arcore. E poi ancora, a proposito di cose cominciate male, mio zio, il primo giorno prima di emigrare per l'Argentina, si è rotto un braccio e poi ha sposato un'infermiera del reparto dove si era ricoverato. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. La storia di oggi era quella di Antonella e parlava di storie cominciate male. Quella di domani è di Claudio e parla dei propri miti visti da vicino. Il concerto lo abbiamo comunque seguito dal backstage, che è perfino meglio che vederlo dagli spalti dove tutto è lontano. Certo, non percepisci l'intero palco, ma ti godi la musica e vivi dall'interno tutto lo spettacolo. Bono era vicino e mentre camminavamo ci indicava e suggeriva a tutti di non smettere mai di credere nei propri sogni e di non credere mai nelle proprie convinzioni. E noi eravamo il simbolo di quella resistenza.